Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Traduzione di Giovanni Raboni. La buona signora Audry si stava appisolando in una poltrona. Madame Arnoux se ne stava sola accanto a una finestra. Federico le andò vicino. Ripresero conversando ciò di cui parlavano gli altri. La signora ammirava gli oratori, lui preferiva la gloria letteraria. Eppure, lei replicò, si doveva provare un'emozione più viva ad agitare le folle direttamente, senza mediazioni, a versare nelle loro anime in modo quasi visibile i nostri stessi sentimenti. Federico non era tentato da quel genere di trionfi, non aveva affatto ambizione. «Ma perché?» disse la signora. «Bisogna averne un poco». Erano uno accanto all'altra, in piedi, nel vano della finestra. Davanti a loro la notte era un immenso velo scuro punteggiato d'argento. Per la prima volta stavano parlando di cose non insignificanti. Riuscì persino a conoscere le sue antipatie, i suoi gusti. C'erano dei profumi che le faceva male, le piacevano i libri di storia, credeva nei sogni. Federico osò sfiorare l'argomento delle avventure sentimentali. Lei compiangeva i disastri delle passioni, ma le brutture dell'ipocrisia le facevano orrore. E tanta dirittura morale era così in armonia con la bellezza regolare del suo volto che sembrava scaturirne. Ogni tanto, fermando gli occhi su di lui per un attimo, gli sorrideva. E Federico sentiva quegli sguardi attraversare la sua anima come i grandi raggi di sole che penetrano nell'acqua profonda. L'amava senza pensieri reconditi, senza speranza d'essere ricambiato, in un modo assoluto. E nei suoi muti trasporti, che erano come slanci di riconoscenza, avrebbe voluto coprirle la fronte con una pioggia di baci. Nello stesso tempo, un soffio interiore lo trascinava quasi fuori di se stesso. Era un desiderio di sacrificio, un bisogno di dedizione immediata, tanto più forte in quanto non gli era concesso di placarlo. Federico non se ne andò con gli altri, Hussonet nemmeno. Sarebbero tornati con la carrozza. Li attendeva già ai piedi della scalinata quando Arnoux scese in giardino per cogliere delle rose. Aveva legato il mazzo con un filo, poi siccome i gambi ne spuntavano irregolarmente, si frugò nelle tasche piene di carte, ne prese una a caso e ve l'avvolse intorno. Infine, consolidata la sua opera con un robusto spillo, l'offerse, un po' commosso, a sua moglie. «Prendi, cara, e scusami d'averti trascurata». Ma la signora diede un piccolo grido. Lo spillo, messo senza perizia, l'aveva ferita e dovette risalire in camera sua. L'attesero per quasi un quarto d'ora. Ricomparve, alla fine, sollevò Marta tra le braccia e salì svelta in carrozza. «E i fiori?» disse Arnoux. «Lascia, non ne vale la pena». Federico s'era già avviato di corsa per andare a prenderli. Lei gridò «Non li voglio!». Ma lui fu subito di ritorno col mazzo e disse che l'aveva riavvolto nella carta perché i fiori intanto erano caduti a terra. La signora li ficcò nella tasca di cuoio a fianco del sedile e la vettura si mosse. Thank you. Federico, che s'era seduto vicino a Madame Arnoux, s'accorse che tremava orribilmente. Poi, quando passarono il ponte, siccome Arnoux prendeva a sinistra, «Ma no, ti stai sbagliando, è dall'altra parte, a destra!» Sembrava irritata, tutto le dava fastidio. Alla fine, Marta aveva chiuso gli occhi, strappò fuori il mazzo e lo gettò dal finestrino e subito strinse il braccio di Federico facendogli segno con l'altra mano di non farne parola. Poi, premutosi il fazzoletto contro le labbra, stette senza più muoversi. Dentro l'ombra, Federico non riusciva a scorgere di Madame Arnoux che la luce degli occhi. Marta le s'era abbandonata in grembo e lui le teneva la testa. «Le darà fastidio?» disse la madre. «Oh, no, no!» rispose Federico. Traversarono Auteuil. Tutte le finestre erano chiuse. Un fanale qua e là illuminava lo spigolo di un muro, poi si ripiombava nell'oscurità. E a uno di quei chiarori Federico la vide piangere. Che cos'era? Rimorso? Desiderio? Quel dolore di cui non conosceva la causa afferrava Federico come qualcosa di personale. Adesso, fra loro due, c'era come un nuovo legame, una sorta di complicità. E cercando di rendere il più possibile dolce la sua voce, le disse: «Lei soffre, non è vero?» «Un poco», rispose. La carrozza continuava la sua corsa. Fuori i caprifogli e i filodendri superavano i muri dei giardini, mettevano nella notte snervanti ventate di profumo. La veste di lei, ricadendo in fitte pieghe, le nascondeva i piedi. A Federico sembrava d'essere in contatto con tutta la sua persona attraverso quel corpo di bambina che s'era disteso fra di loro. Si chinò verso la piccola e, scostando i bei capelli scuri, le diede un bacio sulla fronte, piano. «Lei è buono», disse Madame Arnoux. «Perché?» «Perché le piacciono i bambini. Oh, non tutti!» Non osò dire altro, ma stese la mano sinistra dalla parte dove lei era e la lasciò così, aperta, pensando forse che anche lei avrebbe fatto lo stesso, sino a sfiorarsi. Poi ne provò vergogna e la tolse. Presto furono su strade selciate. La carrozza andava più svelta, le luci a gas si moltiplicarono. Erano a Parigi. Federico, per scendere, aspettò che la carrozza raggiungesse il cortile di casa. Poi, messosi in agguato all'angolo di Rue de Choiseul, poté scorgere Arnoux che se ne andava lentamente verso i boulevard. Dalla mattina dopo si mise a studiare con tutte le sue forze. La sua mente, eccitata, si fece più agile e più forte. Restò chiuso in casa fino al mese di agosto, poi, presentatosi all'ultimo esame, fu promosso. Delorier, che aveva faticato non poco a imbeccarlo per il secondo esame, ripetuto alla fine di dicembre, e per il terzo, dato a febbraio, era sbalordito da tanto ardore. Rinascevano le vecchie speranze. Entro 10 anni, era evidente, Federico sarebbe stato deputato. Entro 15, ministro. Perché no? Col patrimonio, che presto sarebbe stato suo, poteva prima di tutto dar vita a un suo giornale. Quello sarebbe stato l'inizio, poi si sarebbe visto. Quanto a Delorier, aspirava sempre a una cattedra alla scuola di diritto e discusse la tesi di laurea in un modo così notevole da meritarsi i complimenti dei professori. Federico si laureò 3 giorni dopo. Prima di partire per le vacanze, gli venne in mente di organizzare una merenda in campagna per coronare le riunioni del sabato. Lo videro allegro quel giorno. Madame Arnoux si trovava allora a Chartres da sua madre, ma fra non molto l'avrebbe rivista e presto o tardi sarebbe diventato il suo amante. Delorier, che era stato ammesso seduta stante alla sala degli avvocati, vi aveva tenuto un discorso assai applaudito. Pur essendo d'abitudine sobrio, quel giorno s'era mezzo ubriacato e alla fine del pranzo disse a Dussardier: «Sei una brava persona, tu! Quando divento ricco, ti faccio mio uomo di fiducia!» Thank you. Davanti al teatro della Porte Saint-Martin, Federico si fermò a guardare un manifesto. Non sapendo cos'altro fare, acquistò un biglietto. Davano una vecchia farsa fiabesca. La scena rappresentava un mercato di schiavi a Pechino, con relativi campanelli, tam-tam, cappellini a punta. Calato il sipario, Federico andò a passeggiare nel ridotto, tutto solo, e guardò con ammirazione giù nel boulevard, ai piedi della scalinata, un grande landò verde al quale era attaccata una coppia di cavalli bianchi, tenuta per la briglia da un cocchiere in brachi al ginocchio. Stava tornando al suo posto quando nella fila dei palchi, nel primo di proscenio, entrarono una dama e un signore. Lui aveva il viso pallido, contornato da una sottile barba grigia, una decorazione all'occhiello e quell'aspetto glaciale che si è soliti attribuire ai diplomatici. La moglie, più giovane di almeno 20 anni, non era né grande né piccola, né bella né brutta. I capelli, biondi, li portava inanellati all'inglese. Aveva un vestito col corpetto liscio e un grande ventaglio nero di pizzo. Perché gente di quella classe fosse a teatro così fuori stagione, bisognava pensare a un caso, o che avessero voluto sfuggire la noia di una serata tête à tête. La dama mordicchiava il ventaglio, il signore sbadigliava. Federico non riusciva a ricordare dove avesse già visto quella faccia. Nel successivo intervallo, mentre attraversava un corridoio, se li trovò davanti tutti e due. Al saluto abbozzato da Federico, il signor D'Ambreuse lo riconobbe e, avvicinatosi, cominciò subito a scusarsi di imperdonabili negligenze. Era un'allusione ai numerosi biglietti da visita lasciati a casa sua da Federico su consiglio dello scrivano. Si disse poi invidioso della sua partenza per la campagna. Anche lui avrebbe avuto bisogno di riposo, ma gli affari lo trattenevano a Parigi. La signora, appoggiata al suo braccio, teneva il capo lievemente inclinato sulla spalla e l'espressione affabile e vivace del suo volto era in netto contrasto con quella dolorosa di poco prima. «Per fortuna ci si trovano ancora delle belle distrazioni», disse riprendendo le ultime parole del marito. «Che sciocco spettacolo è mai questo! E anche lei del mio parere, signor Moreau!» E rimasero lì, tutti e tre, in piedi, a chiacchierare di novità teatrali. Federico, abituato alle maniere smorfiose delle signore borghesi di provincia, non aveva mai visto in una donna tanta scioltezza di modi, quella semplicità che è, in effetti, un indice di raffinatezza e che gli ingenui scambiano per una manifestazione di subita simpatia. Contavano su di lui non appena fosse tornato. D'Ambreuse lo incaricò di portare i suoi saluti al vecchio Rock. Arrivato a casa, Federico non mancò di descrivere quelle accoglienze a Delorier. «Magnifico!» commentò lo scrivano. «E non lasciarti impastoiare dalla mamma, eh? Torna subito!» Il giorno dopo il suo arrivo a casa, finito di pranzare, la signora Moreau accompagnò suo figlio in giardino. Disse che era felice di intravedere per lui una posizione, dato che non erano ricchi quanto si credeva. La terra rendeva poco, i mezzadri facevano fatica a pagare, era stata persino costretta a vendere la carrozza. Finì col dirgli, insomma, quale fosse la loro situazione. Nei momenti difficili seguiti alla morte del marito, quel furbo di Rock le aveva fatto dei prestiti di denaro, che per un certo tempo aveva rinnovato e prolungato contro la sua stessa volontà. Poi, improvvisamente, era venuto a pretenderne la restituzione. E lei aveva dovuto sottostare alle sue condizioni, cedendogli a un prezzo ridicolo la tenuta di Presl. 10 anni dopo, il capitale s'era dissolto col fallimento del suo banchiere di Melun. Per orrore delle ipoteche e per salvaguardare certe apparenze che stimava utili all'avvenire del figlio, aveva ascoltato ancora una volta i consigli del vecchio Rock, ripresentatosi puntualmente. Ma s'era sdebitata ormai. A farla breve, erano avanzati per loro circa 10.000 franchi di rendita. Di questi, 2.300 erano di Federico, tutto il suo patrimonio. «Non è possibile!» esclamò Federico. Sua madre fece un cenno con la testa come per dire che sì, era fin troppo possibile. Ma lo zio non gli avrebbe lasciato qualcosa? Niente di più incerto. Fecero senza parlare un giro del giardino. Infine, lei se lo strinse al cuore con voce strangolata dalle lacrime mio povero ragazzo, sapesse a quanti sogni ho dovuto rinunciare. Federico sedette sulla panchina, all'ombra della grande acacia. Lei gli consigliava di impiegarsi dall'avvocato Pruram, che poi avrebbe potuto cedergli lo studio. Se fosse riuscito a valorizzarlo, avrebbe potuto rivenderlo e sistemarsi con qualche buon partito. Federico non stava più a sentire. Guardava macchinalmente davanti a sé, al di là della siepe, dentro l'altro giardino. Una ragazzina di circa 12 anni, rossa di capelli, se ne stava là tutta sola. S'era fatta con delle bacche di sorba un paio di orecchini. Il corpetto grigio di tela le lasciava scoperte le spalle appena dorate dal sole. La gonna bianca era cosparsa di macchie di marmellata. E c'era, in tutta la sua persona, una grazia come di giovane belva, delicata e nervosa. La presenza di qualcuno che non conosceva doveva averla sbalordita, perché si immobilizzò bruscamente con l'innaffiatoio in mano e dardeggiava su di lui le pupille limpide, verdi come l'acqua. «È la figlia di Rock», disse la signora. «Il vecchio ha appena sposato la sua domestica e ha riconosciuto la bambina». Rovinato, spogliato, perduto. Federico era rimasto sulla panchina, come fulminato da un'emozione. Malediceva la sorte. Avrebbe voluto sfogarsi prendendo a pugni qualcuno. Inoltre, ad aggravare la sua disperazione, sentiva pesare sul suo capo una sorta di oltraggio, di disonore. Considerandosi un uomo morto, non faceva più niente nel modo più assoluto. Si alzava molto tardi e si metteva alla finestra a veder passare i carri. I primi 6 mesi, soprattutto, furono spaventosi. Sfogava la sua malinconia in lunghe lettere a Delorier, il quale intanto si agitava per sfondare. La condotta rinunciataria dell'amico e le sue eterne geremiadi gli sembravano stupide. Ben presto la loro corrispondenza si ridusse quasi a zero. Federico aveva lasciato tutti i suoi mobili a Delorier, che era rimasto nel suo appartamento. Sua madre ogni tanto veniva sull'argomento, finché un giorno Federico le disse di quel regalo. E lei cominciava a rimproverarlo quando gli fu portata una lettera. «Ma che hai? Stai tremando?» «No, no, niente», rispose Federico. Delorier lo informava di aver preso con sé Senecal. Da 15 giorni ormai vivevano insieme, e così, in mezzo a quelle cose che provenivano dall'ambiente degli Arnoux, adesso si era installato Senecal. Avrebbe potuto venderle, criticarle, scherzarci sopra. Federico se ne sentì ferito fino al cuore e dovette ritirarsi in camera sua. Aveva voglia di morire. Sua madre lo chiamava. Era per consultarlo a proposito di un impianto da fare in giardino. Era un giardino tenuto a parco inglese, diviso per metà da una palizzata. Metà era del vecchio Rock. I due vicini, che s'erano guastati, facevano in modo di non trovarcisi nelle stesse ore. Da quando era tornato Federico, però, il brav'uomo andava più spesso a passeggiarci e si prodigava in gentilezze col figlio della signora Moreau. Lo compiangeva d'abitare in provincia. Un giorno gli riferì che il signor D'Ambreuse aveva chiesto sue notizie. Un'altra volta aveva parlato a lungo dell'uso anticamente vigente nella regione della Champagne di ereditare i titoli nobiliari anche dalla madre. A quei tempi lei sarebbe stato un signore, dato che sua madre è una de Fouvent. E si ha un bel dire, ma insomma, via, un nome è sempre qualcosa. E dopotutto, aveva aggiunto guardandolo con malizia, è una cosa che dipende dal guardasigilli. Fino a 50 anni, Rox era contentato dei servigi di Caterina, una lorenese che aveva la sua stessa età e il viso fortemente segnato dal vaiolo. Ma intorno al 1834 si era portato da Parigi una bella bionda, col profilo pecorino e un portamento regale. Ben presto la si vide pavoneggiarsi con certi grandi orecchini e tutto divenne chiaro quando nacque una figlia, che fu denunciata sotto il nome di Elisabetta Olimpia Luigia Rock. Nella sua gelosia, Caterina era convinta che avrebbe odiato la bambina. Invece prese ad amarla. La circondava di cure, di attenzioni e di carezze con lo scopo di soppiantare la madre e rendergliela odiosa, impresa tutt'altro che difficile dal momento che la signora Eleonora la trascurava nel modo più assoluto, preferendo passare il suo tempo in chiacchiere coi bottegai. Non appena sposata, s'era recata in visita alla sottoprefettura. Aveva smesso di dar del tu alle domestiche e le parve di dover dare una prova di bon ton trattando con severità sua figlia. Assisteva alle sue lezioni e il professore, un vecchio impiegato del municipio, non sapeva come cavarsela. La piccola allieva si ribellava, era punita a suon di schiaffi e andava a singhiozzare sulle ginocchia di Caterina, che le dava invariabilmente ragione. In quei casi le due donne litigavano. Il signor Rock interveniva per farle tacere. Se s'era sposato, era stato per tenerezza verso sua figlia. Non voleva che la tormentassero. Spesso la piccina aveva addosso un vestito bianco a brandelli e certi mutandoni col pizzo, ma nelle grandi occasioni usciva abbigliata come una principessa, per mortificare un poco i borghesi che proibivano ai loro figli di frequentarla a causa della sua nascita illegittima. Viveva nel suo giardino tutta sola, andando sull'altalena, rincorrendo le farfalle, fermandosi d'improvviso a contemplare le cetonie che piombano sui rosai. Certo, erano quelle abitudini a dare al suo volto un'espressione insieme sognante e sfrontata. Per statura e figura, d'altronde, ricordava la piccola Marta, tanto che Federico, la seconda volta che si incontrarono, le disse: «La signorina vuol concedermi il permesso di darle un bacio?» La bambina alzò la fronte e rispose: «Sì che voglio!» Ma la palizzata li separava. «Bisogna scavalcarla», disse Federico. «No! Tirami su tu!» Federico, sporgendosi oltre il recinto, la sollevò prendendola sotto le ascelle e la baciò sulle due guance. Poi la rimise a terra dalla parte di lei con lo stesso procedimento che si rinnovò le volte successive. Thank you. Anna Bonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it